Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Friday, get caught on Monday. The sun will rise, the sun will set. 7 days, 5 and 2. From this life into the next, we're all just trying to make it. can never love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Take me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ancora tu non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me. Ridere, amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Oh, forse sei solo più simpatica. Oh, lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessun amore. Ho solo ripreso a fumare. Se ancora tu, troppo l'unica, ancora tu, incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tua, sperando che non sia follia. Ma sia perché sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso la voglio anch'io. płynę. Some day that'll take it away, so far from Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamiast chmur w miejscu plaż, na kontynentach, w tempie odbłysku rad, na kontynentach. oczach i w uścisku rąk. Czuję to bardziej niż zwykle. To, co się zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle. Wydorośleliśmy w noc.